Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Basta con gli influencer. A guidare i consumi ci sono gli influencer. Chi sono? Perché i brand li corteggiano? Lo scopriamo tra pochissimo. La sharing economy conquista anche gli abiti da sposa. Le millennials sono pronte a comprarne uno usato. E allora vi raccontiamo la prima piattaforma italiana che mette in contatto chi vuole comprare o vendere abiti e accessori per il giorno del sì. Siete convinti che la realtà aumentata sia quella virtuale, digitale? A volte è il mondo intorno a noi che ha bisogno di essere messo in evidenza, lo testimoniano i casi del Focus sui trend di questa settimana. Allora, Louise di St. Louis, mi resta una sola domanda. Ok. Come può una ragazza disoccupata con tre coinquiline permettersi una patchwork denim bowlie di Louis Vuitton? L'ho affittata. Borsa, in prestito o rubarla? Ma come il noleggio dei DVD? Come posso non saperne niente? Resta con me, ti sistemo io. If I have one chance to in my life again, I wouldn't make no changes now, way back when, yeah. And if everything influencer, vedi Carrie Bradshaw in Sex and the City, hanno bisogno di qualcuno che li ispiri, qualcuno che ne sa più di loro. Non sono sotto i riflettori, sono consumatori come tutti noi, ma più evoluti, diciamo così, informati, attenti alle novità e pronti a condividerle nella propria cerchia di influenza personale. Chi non ha del resto tra i propri amici una persona sempre informata su tutto quello che c'è di nuovo, si tratti di un prodotto, un'app, un sito, un ristorante oppure l'ultimo locale di tendenza. Chi sono e perché sono importanti per il mondo dei consumi? Ce lo siamo fatti raccontare da Simona Battaglino di Influse, scritto influse.com, una società attiva nel marketing dell'influenza. Influse possiamo definirlo quasi come un laboratorio. In questi anni i ragazzi hanno studiato un nuovo target, quelle persone che sono sensibili ai cambiamenti e alle novità, su qualsiasi argomento, che può essere un prodotto, uno stile di vita, chiaramente nuove tecnologie che stanno impattando tantissimo in diversi ambiti. Quindi la nostra specializzazione è diventato questo target, può essere un ingegnere, un avvocato, una stylist, una giornalista, sono semplicemente persone che si appassionano alle novità, nuove mete turistiche, nuovi servizi, e sono però poi le persone che veicolano queste novità al resto della popolazione. Ma sono gli influencer o si differenziano dagli influencer? No, è una differenziazione piuttosto importante, nel senso che gli influencer, come li chiamiamo noi, hanno un loro lavoro, sono professionisti in diversi ambiti, hanno semplicemente un'attitudine alla novità. Gli influencer sono persone ingaggiate dalle aziende per pubblicizzare un prodotto. Il nostro marketing si basa sul fatto che la maggior parte delle persone viene spinta all'acquisto da un consiglio. La nostra idea è quella di andare a stimolare questo gruppo di persone che poi a loro volta andranno a raccontare il prodotto agli amici, ai parenti, alla propria community. Sono proprio la prima fascia, quelli che vengono chiamati gli innovatori e gli early adopter. Se tu come brand o come azienda prendi un buon numero di queste persone, li conquisti, diciamo che il tuo successo sarà nei follower di queste persone. Come è cambiato oggi il mondo dei consumi da questo punto di vista? Ci sono ancora le macro tendenze di un tempo per cui tutti, insomma, indossavamo il bomber in una determinata epoca? Quanto conta l'essere mainstream oggi nel mondo dei consumi? Allora, ci sono stati secondo me due cambiamenti principali. Prima si voleva tutti lo stesso prodotto, oggi c'è, come dire, una ricerca di personalizzazione, per cui il successo di grandi aziende oggi è stato quello di creare una proposta per ogni nicchia. Ogni azienda è come una piattaforma che deve accontentare diversi stili di vita e quindi raggiungere tutte queste nicchie è importante. È successo e poi la somma delle vendite, no? Di tutte le varie proposte. L'altra grande cambio epocale è sicuramente la velocità. Per quello gli influencer diventano importanti, perché cambiamenti nel mondo ci sono sempre stati. La differenza oggi è la velocità con cui vengono proposti e quindi c'è bisogno anche di una certa velocità nel comunicarlo al mercato prima di essere in concorrenza con altri brand. Siamo a corto di vestiti puliti! Mi sembra di indossare lo stesso vestito rosso da una vita! Andate sul soffitto, c'è un baule pieno zeppo di vestiti lassù! Quando si parla di sharing economy e di propensione all'accesso piuttosto che al possesso, si cita sempre un oggetto che costa tanto e ha un tasso di utilizzo bassissimo, spesso giace in cantina o in garage per molti giorni dell'anno. Il trapano, l'esempio principe per le piattaforme che hanno introdotto il noleggio di prodotti tra privati. Ce n'è un altro però che gli fa concorrenza, ha tutt'altra carica emotiva, diciamo così, costa molto di più ma giace inutilizzato, in questo caso nell'armadio, dopo essere stato usato, e pensate, una sola volta, l'abito da sposa. Per il trapano le cose sono cambiate da tempo, resta uno degli oggetti più scambiati sulle piattaforme di condivisione, ma i tempi sono maturi anche per l'abito da sposa, come testimonia maryadress.com, prima piattaforma italiana per comprare e vendere abiti e accessori nuovi o usati per il giorno del sì. Francesca Manfredi è la fondatrice. MaryAdress è un marketplace, il primo marketplace italiano per comprare e vendere abiti da sposa usati direttamente tra donne. È un sito online dove le donne che si sono già sposate possono in maniera molto veloce pubblicare la loro inserzione gratuitamente e far sì che il loro abito abbia così una seconda vita e possa dar loro del guadagno per realizzare un altro desiderio. Come è nata l'idea? L'idea nasce fondamentalmente da un mio bisogno, perché quando mi sono sposata, dopo aver speso un capitale non indifferente per l'acquisto del mio abito, non sapevo cosa farmene e di fatto era un gran peccato, perché è un abito meraviglioso di marca che è costato molto e che sarebbe finito sotto il mio letto, perché non c'avevo un altro posto in casa dove metterlo sostanzialmente. Di conseguenza ho iniziato da lì a fare delle ricerche per capire se ci fossero dei siti qualificati dove poter mettere in vendita l'abito, ma in realtà in Italia non c'era, e l'idea di vendere il mio abito in un sito generalista per la vendita di oggetti di seconda mano di diversa natura mi sembrava un po' triste, e da lì quindi è nata l'idea di creare un sito dedicato. Il mercato è pronto, le donne italiane sono pronte a comprare l'abito per il giorno del sì usato? Allora, questa è una bellissima domanda. Diciamo che le donne italiane sono cambiate nel tempo, poiché quando abbiamo iniziato abbiamo fatto una serie di analisi di mercato, e per l'Europa il mercato che più si dimostrava pronto era sicuramente l'Inghilterra, perché è il mercato che per primo attrae nuovi trend che arrivano dall'America, e difatti è proprio un'abitudine di consumo quella di acquistare e rivendere l'abito da sposa. In Italia abbiamo fatto, se vuoi, una scommessa, perché i dati di mercato dimostrano che tra le donne italiane, tra la popolazione italiana, l'attenzione verso la sharing economy e la green economy sta diventando sempre più importante, a tal punto che anche l'economia dell'usato inizia ad avere un peso importante tra i vari player che oggi operano sul mercato. Dal punto di vista della vendita c'è sicuramente una forte attenzione, dal punto di vista dell'acquisto stiamo ora vedendo i primi movimenti. Considerate che MaryAdress è stato fondato il 22 di marzo e ufficialmente è da maggio che inizia ad attrarre le donne in maniera più cospicua, perché tutta una campagna social è partita proprio dal mese di maggio. Stiamo vedendo ora i primi movimenti, ci sono moltissime donne che si chiedono, che si scambiano diverse informazioni, poiché chiaramente è un oggetto molto importante che desideriamo da sempre, fino a quando siamo bambine, e però c'è una forte attenzione proprio perché la qualità degli abiti che sono in vendita su MaryAdress è molto alta, e soprattutto il fatto che l'inserzione su MaryAddress è gratuita, permette di avere un assortimento di prodotto molto vario, sia in termini di taglie che in termini di tipologie di abiti. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte parleremo di realtà aumentata, ma non quella che state immaginando. Tra pochissimo. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta Essere e Avere. Per realtà aumentata, in inglese augmented reality, abbreviato AR, si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni digitali che non sarebbero percepibili con i cinque sensi. Gli elementi che aumentano la realtà possono essere aggiunti attraverso un dispositivo mobile, come uno smartphone con l'uso di un PC dotato di webcam o altri sensori, con occhiali, auricolari o guanti che aggiungono informazioni multimediali alla realtà già normalmente percepita. Focus sui trend. Era la definizione di realtà aumentata, quella citata in molti rapporti di scenario sui consumi del prossimo futuro. Noi però oggi ci vogliamo concentrare sulla vera realtà che sembra aver bisogno in qualche modo di essere messa in evidenza, perché per paradosso, come risultato della digitalizzazione del mondo che ci circonda, la realtà da aumentare è quella fatta di spazi e di oggetti comuni, quelli che ci circondano e noi non vediamo più perché abbiamo gli occhi fissi sul nostro smartphone. È la riflessione che ci hanno ispirato i casi rintracciati per noi da Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, ben trovata. Grazie, un saluto a te e a tutti. Allora, iniziamo subito dai casi perché così lasciamo intuire subito di che cosa stiamo parlando. Il primo è un progetto artistico. Sì. Si intitola Segni del tempo, proprio questo tempo dove il dialogo fra ciò che è, come dire, online e offline è sempre più interessante anche come osservazione. Questi segni del tempo danno il nome a un progetto che due artisti, Scott Kelly e Ben Polginthorne, hanno realizzato in Nuova Zelanda, praticamente in posti meravigliosi del paese, ma anche in luoghi comuni come parchi giochi o altro, hanno posizionato dei pannelli con delle immagini così come siamo abituati a vedere su Facebook, Amazon o comunque mentre navighiamo, questi suggerimenti per l'acquisto, no? Se ti piace questo ti potrà piacere anche e delle immagini di un altro paio di scarpe piuttosto che un'altra proposta di viaggio o di oggetto o di acquisto. E quindi questi mega pannelli posizionati davanti al mare, vicino a un giardino, in una valle, riprendono altre tre immagini di luoghi simili con dei suggerimenti. È una stimolazione, diciamo, soft, interessante, curiosa, ma anche come dire, precisa su quello che a volte gli algoritmi possono scegliere e proporci, e quindi una riflessione su quali sono le nostre scelte: siamo solo consumatori o siamo anche persone che possono orientarsi, stupirsi e cambiare strada nel proprio percorso di vita. Come sempre le immagini sono sulla nostra pagina Facebook, anche il secondo caso ha a che fare con l'arte ma si concentra sullo spazio pubblico, Sabrina. Sì, si concentra in particolare sulla città. Sulla città, in questo caso passiamo alla California, in particolare una città, Redwood City, e in questo caso l'artista Damon Belanger ha realizzato attorno ai luoghi, agli oggetti, diciamo, della strada, quelli più comuni, possono essere cassette per la posta, ringhiere, panchine, ha realizzato delle ombre di questi oggetti che però diventano fantastiche, sorprendenti, curiose. Una cassetta delle lettere ha un'ombra che è un piccolo mostro, piuttosto che un animale come estensione, proiezione di una panchina. E in questo caso è riprendere la attenzione sul nostro cammino, diciamo, all'interno delle città e scoprire il lato nascosto delle cose, un po' di sorpresa, un po' di esplorazione, ecco, per guardarsi attorno e lasciarsi di nuovo stupire da quello che è fisico, da quello che è attorno. Molto divertente, così come quest'altro caso che arriva invece da Città del Messico. Arriva da Città del Messico e presto sarà anche presentato in Canada. A marzo a Città del Messico c'è stato un festival di architettura che si chiamava Mextropolis e per 4 giorni durante questo festival in una piazza centrale della città, del centro storico, è stata realizzata un'installazione con dei secchi da imbianchino, dei secchi bianchi da imbianchino, e l'idea era quella di creare, occupare uno spazio e creare un momento di interazione con lo spazio, che fosse sedersi, giocare, arrampicarsi, perché questa installazione forma come una grande onda bianca, ragionando sul senso di spazio pubblico e di occupazione dello spazio pubblico, perché l'idea è nata da, anche qua, una provocazione, provocare una riflessione nei cittadini di questa mega città, 23 milioni di abitanti, 4 milioni e mezzo di pendolari ogni giorno, sugli spazi, in particolare dei parcheggi, parcheggi che spesso vengono occupati da parcheggiatori che vengono chiamati viene, no? Dal modo in cui chiamano gli automobilisti a parcheggiare in un posto che loro hanno occupato con questi secchielli da imbianchino, piccole pratiche illegali, occupazioni, difficoltà di gestire una città e il suo traffico e di vivere gli spazi. Prima dicevo che questo progetto andrà in Canada, in particolare a Winnipeg, ci sono delle manifestazioni di cultura, giorni di cultura a Manitoba e a Winnipeg, e legati anche a progetti di fundraising, e quindi ci sarà una raccolta fondi per riempire questi secchi anche di gesti e anche di fondi che andranno ad associazioni che lavorano con bambini a rischio. Chiudiamo con un brand che più di altri riesce a dare concretezza alle istanze di consumo e di vita, in questo caso a quelle che arrivano da questa esposizione trasversale al mondo digitale e a quello reale. Di chi parliamo, Sabrina? Parliamo di IKEA. Parliamo di IKEA e rimaniamo in Canada. Rimaniamo in Canada per rappresentare questa campagna studiata da Leo Burnett di Toronto a giugno, ma che è subito diventata virale a livello internazionale. Praticamente il soggetto era un invito a cucinare, un invito a assemblare con semplicità i cibi per creare delle ricette, così come facilmente si assemblano anche i pezzi dei mobili IKEA. La pubblicità presentava un foglio di carta da forno che poi era assolutamente disponibile nei negozi, soggetti diversi, e in questi fogli c'erano tutte le postazioni dei vari ingredienti, ravioli, pomodorini, spezie e altro ancora. Quindi non restava alle persone che posizionare, come in un giochino di bambini, i vari ingredienti sul foglio di carta da forno disegnato, arrotolarlo e quindi prepararsi un bel cartoccio caldo con diverse ricette. Cook this page, quindi è stato il nome di questo progetto. Anche in questo caso il video è sulla nostra pagina Facebook. IKEA ha chiarito, mi raccontavi Sabrina, che non è un prodotto in vendita, però avrebbe sicuramente successo, quindi non escludiamolo prima o poi di poterlo trovare in vendita. Con il divertimento abbiamo visto che anche delle proposte educative a livello urbano o a livello di crescita delle proprie abilità in cucina sono possibili. Grazie Sabrina. Sabrina Donzelli, alla prossima. A presto. Il consumautore. Il mondo dei consumi è cambiato, siamo tutti più informati ed esigenti, siamo consumatori, appunto, ne parliamo di settimana in settimana con il nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Questa sera di cosa parliamo? Questa sera parliamo di un tema apparentemente un po' tecnico, ma che invece andrà a impattare fortemente, soprattutto nel mondo nostro di consumatori e delle aziende, e si chiama Privacy by Design. Cosa vuol dire? Abbiamo spesso parlato dell'importanza della privacy e di come questo sia sempre più percepito dai consumatori. Un'ultima ricerca, ad esempio, parla del 57% degli italiani che pensano che i propri dati personali abbiano un valore superiore ai 10.000 euro. Quindi cominciamo a capire. E cosa avverrà? Il 25 maggio del 2018 in Europa entrerà in azione una nuova normativa che difenderà i nostri dati personali, quindi bisognerà che le aziende siano, diciamo, su questo attrezzate, saranno criptati, non potremo più ricevere senza essere noi informati informazioni invasive, e quindi le grandi multinazionali, ma anche le aziende che sono attente a questo, si stanno appunto attrezzando per gestire questa nuova situazione. Quindi privacy by design vuol dire essere creativi e quindi usare il design nell'uso dei dati. Quindi il patto consumatore-azienda, ne accennavamo la scorsa settimana, come cambierà in questo senso? Cambierà in termini di una parte di reputazione che sarà legata a questo. Ci sono alcune aziende, soprattutto nel nord Europa, come spesso avviene quando si parla di questi temi, ad esempio Lego, che ha già cominciato a proporre questa nuova comunicazione dove si chiarisce quanto i dati, soprattutto poi dei bambini, vengano protetti dall'azienda. Cominciano a esserci anche i primi consulenti, la più importante si chiama Pernille Tranberg, ha scritto questo libro importante, Data Ethics, The New Competitive Advantage, quindi il vantaggio competitivo delle aziende si giocherà anche proprio su questo tema della privacy. Quindi consapevolezza del consumatore che in modo trasparente riesce a capire quanto vale lui come risorsa di dati per l'azienda, e quindi l'azienda, come dire, lo corteggia, lo valorizza in questo. E in questo la speranza è che vinca comunque la qualità, nel senso, o l'eccellenza, perché le aziende non potranno più raccontare cose diverse da quelle che fanno, perché verrebbero smascherate, e quindi è una sorta di nuova competizione sulle competenze e sulla qualità delle aziende. Grazie a Francesco Morace, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Essere Avere finisce qui, a domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.